Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 28. I giudizi temerari. Non giudicare e non sarai giudicato, dice il Salvatore delle nostre anime. Non condannare e non sarai condannato. L'Apostolo dice: non giudicare prima del tempo, ossia fino a che non venga il Signore che svelerà il segreto nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. I giudizi temerari sono severamente riprovati da Dio. I giudizi emessi dai figli degli uomini sono temerari perché gli uomini non sono autorizzati ad emettere giudizi gli uni sugli altri. Ciò facendo, usurpano l'ufficio che nostro Signore si è riservato. In più, sono temerari perché la principale malizia del peccato dipende dall'intenzione, dal disegno del cuore, che è per noi il segreto delle tenebre. Sono temerari perché ciascuno è sufficientemente occupato a giudicare se stesso, senza mettersi a giudicare anche il prossimo. Per non correre il rischio di essere giudicati, è assolutamente necessario evitare di giudicare gli altri. Fermiamoci invece a giudicare noi stessi. Nostro Signore ci ha proibito la prima cosa. E l'Apostolo ci comanda la seconda quando dice: se noi giudichiamo noi stessi, non verremo giudicati. Invece noi facciamo esattamente il contrario. Non manchiamo mai di fare quello che c'era stato proibito, sentenziando a dritta e a manca sul prossimo. Giudicare noi stessi, che sarebbe poi quello che ci è stato comandato, chi si sogna di farlo? Bisogna correre ai ripari, partendo dalle cause dei giudizi temerari. Ci sono dei cuori acidi, amari, aspri per natura, che rendono acido e amaro tutto quello che ricevono. Costoro, secondo il detto del profeta, mutano il giudizio in assenzio, perché non sanno giudicare il prossimo senza rigore e asprezza. Simili persone hanno tanto bisogno di cadere tra le mani di un consumato medico spirituale, perché, dato che l'amarezza di cuore è loro connaturale, vincerla è difficile. Benché per sé non sia peccato, anzi solo un'imperfezione, tuttavia è da ritenersi pericolosa, perché introduce nell'anima e ve li fissa il giudizio temerario e la maldicenza. Altri fanno giudizi temerari non per acidità ma per orgoglio. Pensano che nella misura in cui abbassano l'onore degli altri, alzano il proprio. Sono spiriti arroganti e presuntuosi, pieni di ammirazione per se stessi, che si collocano così in alto nella propria stima da vedere tutto il resto come cose piccole, basse. Quel fariseo diceva: io non sono come gli altri uomini. In alcuni questo orgoglio non è tanto evidente. Si manifesta solo in un certo compiacimento nel considerare i difetti degli altri per assaporare con maggiore piacere il bene contrario di cui si sentono dotati. Questo compiacimento è così segreto ed impercettibile che se non si è forniti di una buona vista non lo si può scoprire. E persino quelli che ne sono affetti non se ne accorgono, a meno che non lo si faccia notare. Altri poi, per lusingarsi e trovare scuse nei confronti di se stessi o per attenuare i rimorsi delle loro coscienze, pensano molto volentieri che gli altri siano contagiati dal vizio al quale si sono dati o da qualche altro equivalente. Pensano che il fatto di trovarsi ad essere in molti colpevoli dello stesso crimine riduca la gravità. Molti si lasciano andare al giudizio temerario per il solo piacere di filosofeggiare, fare gli indovini sulle abitudini, i capricci della gente, quasi per esercitarsi. Che se poi, per disgrazia, qualche volta azzeccano i loro giudizi, l'audacia e la brama di andare avanti diventa tanto forte in essi che solo a fatica si può riuscire a distoglierli. Altri ancora giudicano per passione e pensano sempre bene di ciò che amano e sempre male di ciò che odiano. Soltanto in un caso, sorprendente finché si vuole, ma reale, l'eccesso di amore spinge ad emettere un giudizio negativo su ciò che si ama. Come risultato è mostruoso, ma lo spieghi facilmente se pensi che viene da un amore equivoco, imperfetto, agitato, malato, che si chiama gelosia, che, come tutti sanno, per un semplice sguardo, per il minimo sorriso di questo mondo, condanna le persone, accusandole di perfidia e di adulterio. Infine, spesso, molto spesso, contribuiscono alla formazione di sospetti e di giudizi temerari il timore, l'ambizione e altre simili debolezze dello spirito. Quali sono i rimedi? Bevi più che puoi il sacro vino della carità. Ti libererai da quegli umori perversi che ti fanno dare giudizi temerari. La carità teme l'incontro con il male, tanto meno lo cerca. Quando ci si imbatte, volge altrove lo sguardo, fa finta di niente, anzi chiude gli occhi prima di vederlo. Alle prime avvisaglie finisce con il credere, con tanta semplicità, che quello non era male, ma solo un'ombra o un fantasma del male. Se poi l'evidenza la costringe ad ammettere che è proprio male, se ne allontana immediatamente e cerca di dimenticarne l'aspetto. Per tutti i mali, il grande rimedio è la carità. In modo particolare per questo. Tutto sembra giallo agli occhi degli ammalati gravi di itterizia. Si dice che per guarirli da questo male occorre obbligarli a mettere un po' d'erba detta celidonia sotto la pianta dei piedi. Il peccato del giudizio temerario è un'itterizia spirituale che, agli occhi di coloro che ne sono affetti, trasforma tutte le cose in cattive. Chi vuol guarirne non deve curare gli occhi, ossia l'intelletto, ma gli affetti, che sono i piedi dell'anima. Se i tuoi affetti sono dolci, se sono caritatevoli, anche i tuoi giudizi lo saranno. Voglio raccontarti tre esempi notevoli. Isacco aveva detto che Rebecca era sua sorella. Abimelech vide che gioiva con lei, ossia che la carezzava con tenerezza, e subito concluse che era sua moglie. Un occhio maligno avrebbe pensato che era la sua amante, o casomai, se realmente era sua sorella, che erano due incestuosi. Abimelech segue l'interpretazione più benevola del fatto. Bisogna agire in questo modo, sempre, Filotea, interpretando sempre in favore del prossimo. E se un'azione avesse 100 aspetti, tu ferma sempre la tua attenzione al più bello. La Madonna era incinta. San Giuseppe lo vedeva bene. D'altra parte, la vedeva tutta santa, tutta pura, tutta angelica. Non poteva credere che fosse rimasta incinta mancando al suo onore. Decide allora di abbandonarla, lasciando a Dio il giudizio. Benché ci fossero tutte le circostanze evidenti per farsi una cattiva opinione di quella vergine, egli non volle giudicarla. Perché? Perché era giusto, dice lo Spirito di Dio. L'uomo giusto, quando non può scusare né il fatto né l'intenzione di chi sa per altre vie essere uomo per bene, rifiuta di giudicare. Se lo toglie dallo spirito, lascia a Dio solo la sentenza. Il Salvatore non può scusare completamente il peccato di coloro che lo stanno crocifiggendo. Ne diminuisce la malizia, adducendo l'ignoranza. Quando non c'è possibile scusare il peccato, rendiamolo almeno degno di compassione, attribuendolo alla causa più comprensibile che si possa pensare, quali l'ignoranza e la debolezza. Ma allora non è mai permesso giudicare il prossimo? No, mai. È Dio solo che giudica i colpevoli secondo giustizia. È vero che si serve della voce dei magistrati per renderla intelligibile alle nostre orecchie. Sono il suo tramite, i suoi interpreti, e devono pronunciare solo quello che hanno sentito da lui, quasi come oracoli. Se agiscono diversamente, seguendo le loro passioni, in tal caso chi giudica sono loro. E dovranno renderne conto, essendo a loro volta giudicati, perché agli uomini, in quanto uomini, è proibito di giudicare. Vedere o conoscere una cosa non è giudicare, perché il giudizio, stando al detto della Scrittura, presuppone la necessità di chiarire una difficoltà, che può essere piccola o grande, vera o apparente. Infatti dice che coloro i quali non credono sono già giudicati. Non ci sono dubbi sulla loro condanna eterna. Non c'è nulla di male nel dubitare del prossimo, perché non è proibito dubitare, ma giudicare. Tuttavia, non è permesso dubitare o sospettare se non proprio quando rigorosamente non se ne può fare a meno, e siamo costretti a dubitare da motivi e ragioni serie. Al di fuori di ciò, i dubbi e i sospetti sarebbero temerari. Se qualche occhio malvagio avesse visto Giacobbe mentre baciava Rachele vicino al pozzo, e se avesse visto Rebecca accettare in dono braccialetti ed orecchini da un forestiero di quel paese, avrebbe senza alcun dubbio pensato male di quei due modelli di virtù. Ma senza ragione, senza fondamento, perché quando un'azione è per se stessa indifferente, tirarne cattive conclusioni è un sospetto temerario, a meno che siamo costretti al sospetto da molte indicazioni inequivocabili. Concludere da un'azione malfatta la condanna della persona è un giudizio temerario. Ma su questo tra breve parleremo con maggior chiarezza. Per finire, ti dico che chi ha molta cura della propria coscienza non è quasi mai portato a giudizi temerari. Come le api, vedendo la nebbia o il tempo nuvoloso, si rifugiano nelle loro arnie per sistemare il miele, allo stesso modo i pensieri delle anime buone non si posano su oggetti confusi, né su azioni poco chiare del prossimo. Anzi, per evitare il peccato, si raccolgono all'interno del loro cuore per curare i buoni propositi del proprio emendamento. Solo un'anima insulsa può perdere tempo ad esaminare la vita degli altri. Faccio eccezione per quelli che hanno la responsabilità di altri, sia in famiglia che in società. Per essi, gran parte della coscienza sta nel guardare e vegliare su quella degli altri. Adempiano al loro dovere con amore. E al di fuori di ciò, si comportino come tutti. Capitolo 29. La maldicenza. Il giudizio temerario causa preoccupazione, disprezzo del prossimo, orgoglio, compiacimento in se stessi e 100 altri effetti negativi, tra i quali il primo posto spetta alla maldicenza, vera peste delle conversazioni. Vorrei avere un carbone ardente del santo altare per passarlo sulle labbra degli uomini, per togliere loro la perversità e mondarli dal loro peccato, proprio come il serafino fece sulla bocca di Isaia. Se si riuscisse a togliere la maldicenza dal mondo, sparirebbero gran parte dei peccati e della cattiveria. A chi strappa ingiustamente il buon nome al prossimo, oltre al peccato di cui si grava, rimane l'obbligo di riparare in modo adeguato, secondo il genere della maldicenza commessa. Nessuno può entrare in cielo portando i beni degli altri. Ora, tra tutti i beni esteriori, il più prezioso è il buon nome. La maldicenza è un vero omicidio, perché tre sono le nostre vite. La vita spirituale, con sede nella grazia di Dio. La vita corporale, con sede nell'anima. La vita civile, che consiste nel buon nome. Il peccato ci sottrae la prima. La morte ci toglie la seconda. La maldicenza ci priva della terza. Il maldicente, con un solo corpo vibrato dalla lingua, compie tre delitti. Uccide spiritualmente la propria anima, quella di colui che ascolta, e toglie la vita civile a colui del quale parla. Dice San Bernardo che sia colui che sparla come colui che ascolta il maldicente hanno il diavolo addosso, uno sulla lingua, l'altro nell'orecchio. Davide, riferendosi ai maldicenti, dice: «Hanno affilato le loro lingue come quelle dei serpenti». Il serpente ha la lingua biforcuta, ha due punte, come dice Aristotele. Tale e quale è quella del maldicente, che con un sol morso ferisce e avvelena l'orecchio di chi ascolta e il buon nome di colui di cui parla male. Per questo ti scongiuro, carissima Filotea, di non sparlare mai di alcuno, né direttamente né indirettamente. Sta attenta a non attribuire delitti e peccati inesistenti al prossimo, a non svelare quelli rimasti segreti, a non gonfiare quelli conosciuti, a non interpretare in senso negativo il bene fatto, a non negare il bene che sai esistere in qualcuno, a non fingere di ignorarlo, tantomeno poi devi sminuirlo a parole. Agendo in questo modo, offenderesti seriamente Dio, soprattutto se dovessi accusare falsamente il prossimo o negassi la verità a lui favorevole. Mentire e contemporaneamente nuocere al prossimo è doppio peccato. Coloro che per seminare maldicenza fanno introduzioni onorifiche e che la condiscono di piccole frasi gentili o peggio di scherno, sono i maldicenti più sottili, più velenosi. Protesto, dicono, che gli voglio bene e che per il resto è un galantuomo. E poi continuano. Ma la verità va detta. Ha avuto torto nel commettere quella perfidia. Quella è una ragazza virtuosissima, ma si è lasciata sorprendere. Eccetera, eccetera. Non capisci dov'è l'arte? Chi vuole scoccare una freccia la tira più che può a sé, ma è solo per scagliarla con maggiore forza. Si può anche avere l'impressione che costoro tirano a sé la maldicenza, ma è solo per scoccarla con maggiore sicurezza, per farla penetrare più a fondo nel cuore di coloro che ascoltano. La maldicenza, portata sotto forma di scherno, è la più cattiva di tutte. Fa pensare alla cicuta, che di per sé non è un veleno molto forte, anzi ha un'azione lenta, facilmente vi si può porre rimedio. Ma se viene presa col vino, è senza scampo. Lo stesso è di una maldicenza che, di natura sua, secondo il detto, entrerebbe da un orecchio e uscirebbe dall'altro. E che invece penetra fortemente nella mente degli ascoltatori quando è presentata in un contesto di parole sottili, gioviali. Dice Davide: «Hanno il veleno dell'aspide sotto le loro labbra». La puntura dell'aspide è quasi impercettibile. Il suo veleno dà sulle prime un prurito gradevole, che allarga così il cuore e le viscere e favorisce l'assorbimento del veleno, contro il quale non ci sarà più nulla da fare. Non dire mai: «Il tale è un ubriacone», anche se l'hai visto ubriaco per davvero. Non dire mai: «Quello è un adultero», perché l'hai visto in adulterio. Non dire mai: «Quello è incestuoso», perché l'hai sorpreso in quella disgrazia. Una sola azione non ti autorizza a classificare la gente. Il sole si fermò una volta per favorire la vittoria di Giosuè e si oscurò un'altra volta per la vittoria del Salvatore. Ma a nessuno viene in mente per questo di dire che il sole è immobile e oscuro. Noè una volta si ubriacò, e così anche Lot, e questi in più commise anche un grave incesto. Non per questo erano ubriaconi, e non si può dire che quest'ultimo fosse incestuoso. E non si può dire che San Pietro fosse un sanguinario perché una volta ha versato sangue, né che fosse bestemmiatore perché ha bestemmiato una volta. Per classificare un vizioso o un virtuoso, bisogna che abbia fatto progressi, preso abitudini. È dunque una menzogna affermare che un uomo è collerico o ladro perché l'abbiamo visto adirato o rubare una volta soltanto. Anche se un uomo è stato vizioso per lungo tempo, si rischia di mentire chiamandolo vizioso. Simone il lebbroso chiamò Maddalena peccatrice perché lo era stata prima. Mentì perché non lo era più, anzi era una santa penitente. E nostro Signore la difese. Quell'altro, fariseo Vanesio, considerava grande peccatore il pubblicano. Lo considerava ingiusto, adultero, ladro. Ma si ingannava perché proprio in quel momento era giustificato. Poiché la bontà di Dio è così grande che basta un momento per chiedere ed ottenere la sua grazia, come facciamo noi a sapere che uno, che ieri era peccatore, lo sia anche oggi? Il giorno precedente non ci autorizza a giudicare quello presente. E il presente non ci autorizza a giudicare il passato. Solo l'ultimo li classificherà tutti. Non potremo mai dire che un uomo è cattivo senza pericolo di mentire. In caso che sia necessario parlare, possiamo dire che ha commesso tale o tal'altra azione cattiva, che ha condotto una vita disordinata in tale periodo, che agisce male al presente. Ma non è lecito, da ieri, tirare fuori conclusioni per oggi, né da oggi per ieri, e ancora meno da oggi per domani. Se è vero che bisogna essere molto attenti a non parlare mai male del prossimo, però bisogna anche guardarsi dall'estremo opposto, in cui cadono alcuni, i quali, per paura di fare maldicenza, lodano e dicono bene del vizio. Se ti imbatti in un maldicente senza pudore, per escusarlo non dire che è una persona libera e franca. Di una persona apertamente vanesia, non dire che è generosa e senza complessi. Le libertà pericolose, non chiamarle semplicità e ingenuità. Non camuffare la disobbedienza con il nome di zelo, l'arroganza con il nome di franchezza, la sensualità con il nome di amicizia. Cara Filotea, per fuggire il vizio della maldicenza, non devi favorire, accarezzare e nutrire gli altri vizi, ma con semplicità e franchezza devi dire male del male e biasimare le cose da biasimare. Solo se agiamo in questo modo diamo gloria a Dio. Fa però attenzione a quello che ora ti dirò. Si possono lodevolmente biasimare i vizi degli altri, anzi è necessario e richiesto, quando lo esige il bene di colui di cui si parla o di chi si ascolta. Facciamo degli esempi. Supponi che in presenza di ragazze vengano raccontate delle licenziosità commesse da Tizio e da Caia. È una cosa senz'altro pericolosa. Oppure, supponi che si parli della dissolutezza verbale di un tale o di una tale. O ancora, di una condotta oscena. Se io non biasimo chiaramente quel male, o peggio, tento di scusarlo, quelle tenere anime che ascoltano avranno la scusa per lasciarsi andare a qualcosa di simile. Il loro bene esige che con molta franchezza biasimi all'istante quelle sconcezze. Potrei riservarmi di farlo in un altro momento solo se sapessi di ricavarne sicuramente un miglior risultato, togliendo allo stesso tempo importanza ai colpevoli. Ed è necessaria un'altra cosa. Per parlare del soggetto devo averne l'autorità, o perché sono uno di quelli più in evidenza nel gruppo, e nel qual caso, se non parlo, avrò l'aria di approvare il vizio. Se invece nel gruppo non godo di molta considerazione, devo guardarmi bene dal fare censure. Più di tutto, poi, è necessario che io sia ponderato, esatto nelle parole, per non dirne una sola di troppo. Per esempio, se devo riprendere le eccessive libertà di quel giovanotto e di quella ragazza, perché chiaramente esagerate e pericolose, devo saper conservare la misura per non gonfiare la cosa nemmeno di un soffio. Se c'è soltanto qualche sospetto, dirò solo quello. Se si tratta di una sola imprudenza, non dirò di più. Se non c'è né imprudenza né sospetto di male, ma solo materia perché qualche spirito malizioso faccia della maldicenza, non dirò niente del tutto, o dirò solo quello che è. Quando parlo del prossimo, la mia bocca nel servirsi della lingua è da paragonarsi al chirurgo che maneggia il bisturi in un intervento delicato tra nervi e tendini. Il colpo che vibro deve essere esattissimo, nel non esprimere né di più né di meno della verità. E un'ultima cosa, pur riprendendo il vizio, devi fare attenzione a non coinvolgere la persona che lo porta. Ti concedo di parlare liberamente solo dei peccatori infami, pubblici, conosciuti da tutti. Ma anche in questo caso lo devi fare con spirito di carità e di compassione, non con arroganza e presunzione. Tantomeno per godere del male altrui. Farlo per quest'ultimo motivo è prova di un cuore vile e spregevole. Faccio eccezione per i nemici dichiarati di Dio e della Chiesa. Quelli vanno screditati il più possibile. Ad esempio le sette eretiche e scismatiche con i loro capi. È carità gridare al lupo quando si nasconde tra le pecore, e non importa dove. Tutti si prendono la libertà di giudicare, di censurare i governanti e parlare male di intere nazioni, lasciandosi guidare dalla simpatia. Filotea, non commettere questo errore. Tu, oltre all'offesa a Dio, corri il rischio di scatenare mille rimostranze. Quando senti parlare male, se puoi farlo con fondatezza, metti in dubbio l'accusa. Se non è possibile, dimostra compassione per il colpevole. Cambia discorso, ricorda e richiama alla mente dei presenti che coloro i quali non sbagliano lo devono solo a Dio. Riporta in se stesso il maldicente con buone maniere. E se sai qualcosa di bene della persona attaccata, dilla. Introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.